di compagnia. Allora, innanzitutto noi avevamo pensato a diverse idee, qua ne abbiamo ben deciso. Però noi volevamo più esaltare un artistico in sé. Noi facciamo tutti quanti i 2 anni canonici in cui facciamo l'infarinatura generale e poi ci dividiamo nei nostri indirizzi, figura, architettura, grafica e architettura, multimediale. E quindi abbiamo pensato di fare una sorta di unione di tutti questi indirizzi. Le idee si sono sprecate nel nostro gruppo, infatti abbiamo 3 idee, tra cui una scultura dadaista che pensavamo di metterla nelle nicchie che ci sono quelle davanti all'ingresso principale, un po' per sfruttare la vecchia natura di conservatorio che era questa scuola. Qua ci giravano le suore, quindi non ci sono più i santi, mettiamoci qualcosa di nostro. Oppure anche semplicemente su quelle pareti che... Sulle pareti laterali, ma anche su quelle principali magari, sono davvero poco sfruttate e, scusate se lo dico anche perché qui ci sono dei professori, per favore comprate un tagliaerba, davvero, ne abbiamo bisogno. Comunque la nostra idea principale era appunto di sfruttare queste zone, vabbè, solo per chi, e noi non le utilizziamo praticamente mai, a parte i professori e chi c'ha il motorino. No, il motorino l'ho portato in mezzo. Dimenticate quello che ho detto? Vabbè. La nostra idea principale è quella di unire tutto, quindi iniziare dalle materie un po' più scientifiche come quella di architettura e il multimediale con i computer e le fotografie. Ora, di sicuro non si vede a tutti, ma uno dei nostri murales che abbiamo un po' cercato di fare era una macchina fotografica che esce da uno schermo di un computer che a sua volta fa fuoriuscire dei pennelli da pittura che vanno sopra un progetto appunto architettonico di un palazzo, di uno stadio, di una scuola, insomma, un progetto del genere. Però abbiamo anche pensato a una scultura che può rimandare un pochino tutto, tipo immaginate il pensatore, la statua famosa. Ora fate una sorta di collage con tutti gli elementi che possono richiamare l'architettura, la fotografia e lo studio sul computer. Oppure semplicemente in maniera molto, ma molto dadaista, così, dei pennelli, delle macchine fotografiche, anche vecchie, moderne, ma qualcosa che non utilizzate più, messi in queste... nelle nicchie dell'universo principale. In principio c'erano i santi, adesso noi ci mettiamo la nostra... Non ci sono più i soggetti biblici, ma ci possono essere i soggetti artistici. Bisogna sfruttare questa scuola. Ma lo sapete, è una tela bianca, basta guardarsi attorno, e quindi noi vogliamo sfruttarla a dovere. Anche se queste sono soltanto delle bozze, delle idee un po' così campate in aria. Ma davvero. Perché alla fine noi dobbiamo attirare nuovi studenti o anche soltanto far venire in mente i genitori. Ma lo sai che potresti andare all'artistico? Visto che ti piace disegnare, però non ti applichi bene. In questa scuola, guarda, ci sono questi murales che saranno fatti gli studenti. Allora sì che qualcuno vuole aiutarci. Ok, allora, murales, staffe, dadaiste, comunque insieme. Thank you. Bravi, bravi.